professionista, mi piace avere queste radio così, sono tutte sotto alimentazione, ognuno c'ha il suo microfono e questo lo sto usando con un MS-600 della Intec da tavolo, poi ne ho con l'M500, Voltane +2, +3, Sarelta, insomma tutti i microfoni adeguati a quelle radio americane lì. E quindi stasera stavo mi dico a provare questo, ma se per te è troppo basso anche come segnale commuto con la radio grande, non ci sono problemi, tieni conto che ti ripeto sto andando con sicuramente non più di 6 watt, non più di 6 watt, oh, vale. No, non c'è problema. Ma come Santiago se sentiva 9? No, va bene, non so, adesso sono io. Ti ho conosciuto, no? Qua è... Non è diversa, capito? Vabbè, tu di solito cambi, certo, gli apparati li mettere in funzione, altrimenti si potrebbero anche bloccare, no? Oppure si potrebbero anche guastare, perché no? Ah, certo, sei collezionista, mi fa piacere, vedi, mi piacciono le persone che fanno collezione di apparecchi radio, eccetera eccetera. Oh, yeah, guarda, si è calando via la voce, mamma mia, speriamo che non mi faccia male. Senti, ti volevo chiedere, tu come fai a fare la commutazione? Perché tu mi hai detto fai la commutazione da una parte all'altra, come la fai questa commutazione? Guarda, io adesso mentre parlavi tu ho commutato quello grande, quindi adesso così mi senti meglio, questa è la mia modulazione normale. DS440 da Kingo. Io commuto da un ingresso d'antenna su un commutatore d'antenna da 4+4 e praticamente con la Mantova io alimento 8 radio che lavorano con la Mantova, capito? Di cui 6 baracchini, come ti ho detto poc'anzi, e 2 HF, di cui questo è il 140. Gli altri HF sono sotto altro tipo di antenna, capito? Antenne a livello amatoriale. Ah, capito, sì. Ah, vabbè, sì, tramite commutatore antenna, capito. Ecco che il giorno dopo dice, facevamo la commutazione, tra una parata e l'altra, ma come la fa questa commutazione? Cioè, cambi da una parata all'altra tranquillamente. Se adesso sei tornato alla modulazione tua, ecco, sì, questa è quella che mi piace a me. Questo è il mitico DS440, anche questo degli anni 90, poi c'è un 140. E tanti altri, vabbè, anche stazioni, sono collezionista anche di stazioni base a livello valvolare come Sommer, Camp, IAESU, eccetera, capito? Sì, sono collezionista, mi piace avere quel tipo di radio, più vecchie sono e più belle sono per me. Questa di stasera è stata veramente una... sono rimasto un po' così perché... un avanto di magazzino, è arrivato dentro la sua scatola originale, con manuali originali, tutto celofanato, microfono mai usato, cavi mai usati, praticamente nuovo dalla fabbrica. Ed è un vecchio Stalkin undicesimo della Cobra, di vecchia generazione. Molto bello anche esteticamente, funziona perfettamente. Avevo un 40 canali più 40 canali, tutto su 80 canali di radio, bello smitter, bella recezione, insomma, bellino, va bene. Ho visto, vale, tutto qua, a te ancora. Sì, ho capito, va bene, diciamo che è più stato bene, va. Che sono collezionista, ti piace, sì, a me piacciono, però tutti questi apparati, capito? No, non è un problema, sarebbe per me un problema anche dove metterli, capito? Io non ci avrei, non ho manco il posto dove metterli. Beh, tutto è quando uno piace, piace. Poi sei anche radioamatore, tanto di cappello, io mi devo abbassare contro spendo tantissimo sulla radio, spendo tantissimo perché è la mia passione da ragazzino. Io ho preso la patente nel 1993, prima ho fatto sempre il pirata, però avevo le stesse cose che ho adesso, anche se non le potevo usare, però ce l'avevo come seguro PL, quindi le detenevo senza microfoni, senza niente, qualche volta mi hanno ingessato, poi tolto il gesso, mi hanno di nuovo ingessato, alla fine mi sono rotto la palla, ho detto ma sì, vado, mi prendo a fare la novetta patente, almeno non mi rompono più le scatole. E quindi insomma siamo sempre qua, sono un grande amante della radio, un grande rompimento di palle, come dicono tutti, però mi piace fare radio, vale. Sì, no, anche a me, guarda, mi piace stare al baracchino, mi piace, diciamo, se c'è un PC, però io il PC lo uso un po' per niente, perché, non lo so, a me il baracchino mi è sempre piaciuto, cioè io adesso diciamo che sono trasferito tanti anni che non avevo, cioè io, diciamo, sono entrato negli anni 70, no? Sono rimasto parecchi anni, diciamo, sono rimasti veramente tanti anni, mi sono divertito, quello sì, ci siamo divertiti tantissimo, facendo fare dieci, mi sono divertito, poi diciamo che mi sono iniziato da rogne, capito? Mi disturbi, mi sono sulla televisione, mi sono così, ti denuncio, questo e quest'altro, siccome ero, c'erano apparati e lineari che non potevo usare, allora ho avuto anche un po' di paura, ho venduto tutto e città. E' finita così, poi ho ripreso due anni fa, ho ripreso due anni fa, mi sono comprato un apparato, oggi non ho più una radio, una piccola come dimensioni, no? Mi sono preso la Precise 5008, forse per la macchina, no? Io volevo un apparato piccolo per mettere in macchina, l'ho lavorato e va bene così. Va bene così, insomma, e ho ripreso nuovamente. Sai, perché guarda che non c'è nessuno, siamo in pochi, siamo 4-5 gatti, che miseria, cioè stiamo cercando di chiedere in giro, no, altri CD se volevamo entrare nuovamente, non c'è niente da fare, sono attaccati a questo telefonino al PC, porca miseria. Sì, ma non credere che qua sia la stessa cosa, vale. Abbiamo ripreso un po' di persone, due o tre, ma lì è iniziato il tran tran, qualcuno sta facendo sentire, qualcuno entra ogni tanto, so. Noi qui a Sassari, bene o male, la ruota c'è, però lì ad Alghero, io mi ricordo, negli anni passati c'era tantissima gente, adesso con l'ora del telefonino che poi puoi fare di tutto e di più si è aggiunto il computer, la gente si è un po' stufata e quindi niente, io però non mi stufo mai, ho la mia camera, la mia sala radio cosiddetta dove non entra nessuno, sei per quattro, quindi non ho problemi, è una stanza dove io ci vivo praticamente parecchie ore del giorno e mi diverto, insomma. Faccio un po' di attività generale sia VHF, non HF, qua in 27 parecchie, sto anch'io al computer mentre ascolto, mentre faccio, però è un'attività che a me va bene così, fino a quando possiamo farla la facciamo, quando non possiamo farla vale ciccia, non è un problema, si parla quando si può, quando non si può si sta zitti. Buonasera dalla città di Ferro. Ah, cazzo. Certo, Claudio, sì. Così, molta gente se n'è andata, cioè mi dispiace però, vedi, non riprendere più questo... a parlare così alla radio, ma non lo so, vabbè. Vabbè, siamo in pochi, pazienza, cosa posso fare? Io quando non ce ne sono qua, passo col 10 dove siete voi, no? Sta stretto in ascolto. E raramente che io entro, capito? Perché molti io non li sento, perché arrivano tanti. Alcuni li sento, alcuni no, allora rimango in ascolto e va bene così. C'è stato qualcuno? Sì, avanti Sandro, buonasera, compagnia di Valerio Valghero. Ciao Claudio, buonasera. Sera. Saluto Valerio, Valerio, buonasera. Sera. Sandro, quel di Porto Torres, riesco diciamo a tirarti benino, diciamo. Non so se tu riesci a tirarmi fuori, in quanto diciamo la mia posizione per Alghero è alquanto negativa. Comunque, vediamo un attimino se riesci a tirarmi fuori. Ok. Claudio, ti do la notizia che oggi mi è arrivato quella questione là da Charlie Alfa. Positivo. Con nominativo? Si conferma. Conferma. Era ora. Ok, perfetto. Allora così qualche volta possiamo fare qualche prova. E così ti battezzo e ti metto all'ordine anche a te come ho fatto a Salvatore. Ok, dai, ok. Va bene, vediamo un po'. Valerio? Valerio. Sì, ti ascolto. Sono un po' basso di modulazione, io sono un po' male la gola. Sì, ti ascolto, Sandro, buonasera, ben entrato. Mi sa che è la prima volta che ci sentiamo, perché non mi penso. Perché il comportatore è un po' difficile per noi, è molto, molto difficile. Sì, ti ascolto, facevo 5. Come radio, diciamo, 4 ti potrei dare, va bene, non è proprio chiara chiara. Un po' di, si sente anche un po' di effetto ecco sotto, quello sì. Ok, io più di soltanto non posso uscire perché sto usando l'apparato della macchina che c'è a meno vasto rispetto all'altro che adesso è infortunato. Adesso vediamo poi i prossimi giorni di mettere, di prendere il lineare che c'è in macchina e portarlo su a casa, in modo da poter passare un po' di più. E riprendi, Sandro. Ok, Valerio. Ok, dai, anche io ti ascolto benino, diciamo, Santiago di 3 è una radio di 4, abbastanza, diciamo, comprensibile, magari va bene perché, diciamo, non c'è QRM, almeno da parte mia non ho QRM, e quindi diciamo che la frequenza è, diciamo, abbastanza pulita. Va benissimo, mi ha fatto piacere, Daniele, di averti collegato. Sì, Porto Torres, diciamo, almeno nella mia posizione ho negativo, in quanto negativo. Mi faccio ascoltare però, diciamo così, a livello agli olio. Considera che adesso sto usando un normale apparato, diciamo, da BM, quindi non è tutto questo granché, però nel suo piccolo, diciamo, si fa ascoltare. Va bene. Va bene. Claudio, riprendi. Riprendi. L'importante è farsi sentire, poi non ci sono problemi, di più di meno, l'importante è farsi ascoltare, l'importante è che la gente ci sia, che ci sia gente in radio, poi come si arriva, va bene, e io so domani mattina devo smontare tutta la baracchini, perché ho tolto le finestre, devo farmi le finestre qua, con la guardaliera nuova, tutto, quindi hanno bisogno di spazio e devo smontare una mattina, mi alzo presto, devo buttare giù tutta la parte baracchini, quindi la base è quella, smontare mezzo tavolo, cioè c'è il ferro sotto, quindi non faccio altro che staccare la barra da sotto, però prima devo smontare tutti i baracchini, perché devo fare dei lavori qua in stanza, e quindi mi alzerò presto la mattina al fresco, butto tutto giù per terra, faccio questo lavoro delle finestre e poi rimpiazzo tutto, quindi mi approfitto per togliere un po' di polvere da sotto, se non dare una bella pulitina, almeno a quella parte dei baracchini che tu ben conosci, e ce ne sono tanti e di più. Va bene, Valerio, ancora per te, ma lì ad Alghero io devo salire, adesso appena mi riprendo la spalla, devo montare l'antenna nuova a Pinangio, e così almeno lui mi ricordo che va sempre in radio, perciò un po' di compagnia devo fare. Da tanto che io non lo sento, da parecchio, da anni, sono anni, vabbè no, l'ho sentito diciamo qualche mese fa, è entrato un attimino perché c'è appunto c'è problemi all'antenna e non vuole così diciamo bruciare qualcosa, evidentemente c'è, no, è intatto. registrarti, non trovo mai nessuno alla radio, io dico il tuo, lo riprendi Claudio. Allora, probabilmente io mi sono staccato, a me non mi senti in radio dalle 2 sino alle 5 e mezza, e sono abituato a riposarmi, quindi niente. Però verso quell'ora così io sono uscito per fare delle commissioni, e se no sono tutta la sera con l'infanzia, quindi ti avrei sentito, ci saremmo anche visti. Invece no, sicuramente non ero qua in stanza, magari il volume era basso, a volte abbasso tutto, sempre tutto acceso, qua la rotta il mattino, sino a quando mi corico è tutto acceso, e seguo un po' a destra, a sinistra, insomma, tutte le cose che ci sono nell'aria, però evidentemente mai in quell'attimo che mi sono allontanato, oppure non c'ero direttamente a casa, perché ti ripeto, mi sono assentato un'oretta forse, ed è proprio quell'ora lì. Va bene. E Sandro, tu niente, non ne hai, Riccardo, non ne hai, quindi non te ne chiedo neanche. Domani mattina vado, lo compro, compriamo una tassa da 50 metri e così facciamo questa benedetta calata per la direttiva 9 elementi che se ne sta vedendo lì montata, pronta a girare, ma non c'è il tempo di che scende giù, e quindi domani infatti ne approfitto per smontare la scrivania, tutta la parte del petto baracchini, così posso entrare tranquillamente dietro e tirare il cavo che porto giù, perché così mi viene un bel male, parecchio male. Va bene Sandro, per te ancora allora il microfono, vai. Diciamo come cavo negativo, tu lo sai, nella situazione in cui al momento io mi trovo in una situazione un po' precaria, sai benissimo che con questa antenna adesso sto andando con l'accordatore, per il momento no, perché c'ho ben altro, sai benissimo che adesso per questa tabacco non mi permette di avere il tempo e così via, ma penso che finita l'estate, diciamo settembre-ottobre, mi deciderò, diciamo, a cambiare quell'antenna, almeno qua. E dovrò sostituire il cavo, quindi prenderò il cavo come si deve. E quant'altro, no, mi era rimasto un po' qualche spezzone, qualcosa del 213, ma quello non lo so, mi sembra che sia qualche metro, qualcosa, perché l'avevo un mezzo distrutto per crearne, diciamo, qualche spezzone, quant'altro. E niente, nulla, va bene, Daniele, nulla, che dirti, di Alghero sono quasi di casa, perché con riguardo, diciamo, il mio tabacco ad Alghero più o meno, non dico ogni 2 giorni, ma almeno ogni 2 o 3 giorni sono sempre lì ad Alghero. Appena finito di fare carica, quindi io mi rilasso un attimino nel mio angolino e quindi la radio per me, diciamo, dopo una lunga giornata di caldo e quant'altro, la radio, diciamo, è un rilassamento per me. Vabbè, Daniele fa un determinato lavoro, io faccio un altro determinato lavoro, diciamo che ho dei punti fissi, ho dei punti fissi lì, senz'altro conoscerai bene lì a Lido, nel centro balneare da Lido, lì dall'avvocato carissimo, poi alle Bombarde. Non c'è problema. viaggi. Magari ci sarà qualche occasione che verrà, magari l'opportunità di potersi conoscere. Ok, Claudio, te il mic. Ciao Luca, buonasera, in compagnia di Valerio. Luca. Senti, ho inviato le ammille, c'è un caldo di Simone qua. Vabbè, usando un amplificato è normalissimo, diciamo, che accoglie quant'altro, ma non è un problema, sì, è abbastanza comprensibilissimo. Sì, è abbastanza comprensibilissimo, vai, non ci sono problemi. Signori, io ne approfitto, vai, stavo facendo giusto una spatolata, giusto per fare quattro chiacchiere. Vi lascio perché devo ultimare alcune cosettine. Ciao Luca, alle prossime, ciao Claudio, ciao, ci sentiamo. Valerio, è stato piacere averti collegato lì in quel di Alghero, se coincide tutte le prossimine. Valerio, a te il mic. Ok, Sandro, ricambio, saluti, mi ha fatto piacere comunque ascoltarti, adesso vediamo un po' di ascoltare anche gli amici di Porto Torres, vediamo un po' di sentirli e di farmi sentire, soprattutto di farmi sentire. Ok, alle prossime, Sandro, ci vediamo. Ciao Luca, ben sentito, sì, ti porti appresso un bel po' di rumore, riprendi? Ciao Valerio, lo so, purtroppo qua fa molto caldo, questo microfono è micidiale, è molto amplificato, ci va uno, però forse riusciamo a ridurre un po'. Adesso di meno, confermi? Sì, confermo, adesso, diciamo che ho una versione più chiara adesso, Cioè, sono a meno di uno, sono a meno di uno, guarda, sono più, ma dopo che non mi senti più. Vedi? È proprio sensibile. Vabbè, la voce così avanti qua. Ma c'è anche Franco? Franco D'Alghero? No, negativo, c'è solo Valerio. Mi stavo spazzolando, non c'era nessuno e mi sono fermato qua sul canale 15. Ciao Sandro, un abbraccio, ci sentiamo domani, ci aggiorniamo per telefono, ok? Se sei in zona mi fa piacere se passi a trovarmi come sempre. Ok, avanti, va bene. Allora ti sento bene, lascia tutto così che si sente bene. Troppo amplificato e ti portare appresso un po' di mombetta. Ma cos'è Sandro, fresco di OM? Ciao Sandro, scusa, la prossima dai. Un 144, si sente a ore, prossimine. Ciao Sandro, un vecchio CB. Sono un vecchio CB, anche un neopatentato, sì, la sessione praticamente dell'anno scorso. Ok, sì, gli ho levato oggi la nominativo con tutta la cosa, questo mi fa piacere, così si incrementa un pochino. Sì, Sandro è un radiomatore, non so, un CB. Ok. Sì, ho fatto già la richiesta l'anno scorso e hanno parlato un pochino perché c'era l'esame di mezzo eccetera, quindi adesso è arrivata la nominativa e quindi fra un po' opererà anche lui assieme a me, assieme agli altri nella banda HF, anche se poi io perlomeno l'ho fatto giusto per non avere rotture di palle. Sono un grande DXC, come si dice in gergo amatoriale, pochi DX, pochi collegamenti, ogni tanto entro, faccio due chiacchiere e basta, però la mia passione è qua, è sempre qui a rompere palle alla gente e così via, capito? Rompere palle alla gente, no? Appunto, io ti sento sempre qua, su questa, diciamo, sulla frequenza CB. Appunto, ma è radioamatore, strano che non parli anche sulle frequenze radioamatoriali. Sono in terra, in cielo, in ogni luogo, come Gesù Cristo, capito? Io ho tutto acceso, quando mi chiamano io rispondo a tutte le parti, però non sono abituato a andare a stare lì, adesso tutte le bande amatoriali sono spente, in silenzio, la mattina quando mi alzo accendo tutto, mi metto ad ascoltare in 40 metri, 20 metri, ne faccio attività, ne faccio, sembra che non ne faccio, ma già ne faccio. l'hanno sempre avuta con me, perché io appartengo ai radioamatori, ma sono un CB, quindi essere radioamatori non vuol dire parlare solo nelle bande HF, vuol dire fare radio. In una maniera o nell'altra si fa radio, quindi sono sempre radioamatore come tutti. Amare radio, come ti ho detto, la parola stessa, e quindi amare la radio vuol dire usarlo e parlare. Tutto qua. Sì, beh, è importante parlare, o su questa frequenza o altre, è importante parlare, cioè abbandonare quella frequenza là, no, cioè a me non mi piacerebbe, no. Ma mi sarebbe piaciuto questo radioamatore, ma l'ho provato tante volte, a me mi fregava la telegrafia. Io mi bloccavo, non riuscivo ad andare avanti, e ho detto, boh, basta, sospendiamo tutto, anzi, lasciamo perdere, stiamo bene così. Adesso mi hanno detto che non c'è più la telegrafia, ma ormai siamo vecchi, non ho più voglia di studiare. Sì, ma per studiare il minimo, eppure c'è problema. Sono antico 93, era compito scritto come un esame di quelli che fanno la scuola, un esame di fatto. Allora, se è qui, se sei preparato, penso che si possa fare, sì, non c'è più la telegrafia, hanno ancora fatto le due licenze, quindi quella ordinaria e quella speciale. Io dalla telegrafia sono stato esonerato perché ero in marina e quindi ero un radiotelegrafista navale seconda classe. E così mi sono congelato, quindi ho mandato nulla osta e mi hanno esonerato dalla telegrafia, quindi sono passato automaticamente prima il W0 e poi S0 in automatico, capito? Sto più in gamba ieri, no? Fregate a tutti così, no? Ormai la telegrafia la conoscevi alla perfezione, beh certo. Va bene. Lasciamo le cose come stanno, rimango qua, faccio compagnia agli altri, va bene, e vabbè, pazienza, mi sarebbe piaciuto, però sì. Ci volevano anche i soldi, quei incrociatori ci volevano anche i soldi per comprare tutto l'ambaradam, vabbè. Ok, va bene, riprendi Luca. Luca. Ehi, eccomi qua, c'ho un dolore alla schiena, porca paletta, di nuovo, mi sa capo. Ai. Tocca, sta rotta male, insomma, ha 38 anni, la rotta male. Non lo so, ho fatto punture, niente, non... Sì, diciamo che un po' me l'ho fatto bene, perché prima non riuscivo a farmi a letto, adesso, meno male, grazie a Dio... quello di nuovo può puntare a capo. Uia, mamma mia. Questa andiamo lì a giocare in cantiere, è chiaro, è sacco di cemento, ma ti fanno i sacchi da 50 kg. Esagerato. Uia, prendo l'uomo l'acqua, come si guarda nella schiena. Dove sei altro adesso? Ciao Valerio, se mi stai ascoltando, io sono piccolino, non so se tu mi ascolti di quelle coordinate, non lo sarebbe sentito. Vediamo che ti ascolto, forse quello che è piccolino sono io, eh. Io sono più piccolino. Tranquillo che ti ascolto alla perfezione. Le prendi ancora, Pacchetto, buonasera anzi. Buonasera, ben ascoltato, no, stavo seguendo un po' questa partita in partita Boccacciona, una partita Boccacciona. Che dicendo? Oh, 0-0, tempo supplementare adesso. Passo, vediamo domani cosa esce. Poi lo andiamo da casa, provo a giocare a andarmi nei posti. Ahia! No, c'è di là, Claudio, ogni rubri di andati, no? su. La media di ogni giorno, cioè ogni giorno sta spendendo una media di 10, 15, 20 euro, come la dici? Troppo, Luca. Era un fumo, se no era anche di 40. Appunto, lascia perdere, spendi meno. Se vuole qualche la mia arma costa 2,50. E ma non è che mi convida, se me lo convido, ora peggio, un bicchiere di 2 euro. Devi subito basta di dare. Perché dai, facciamo girare la rotella, vai. Vai Dio Claudio. Tutti spariti. Avanti, anche Valerio, ci sei. Cioè, ci sono, ma la voce qua se ne sta andando, stiamo piano. Raga, la mia, la tua. No, la mia, mi sono la gola. Ah, il corporale è preso. Oggi mi hanno fatto scolare, l'ha preso Claudio. Ci capisco, meglio. Va bene, io dipende. Prendete il ventilatore e mi ammazza, ma purtroppo lo devo tenere. Perché se qua faccio il ventilatore, anche se fa male, ma è lontano, però un po' ti aiuta, dai. Io poi ci aiuto, già sono anch'io, già il ventilatore acceso. A manetta, perché qua c'è caldo, c'è un bel riscaldo, questi giorni, qua che ero, si serve chi può. Vabbè, oggi stasera c'era vento. C'era un po' di... Ah no, stasera, stamattina c'era vento, stasera non c'era. C'era vento, si stava un po' meglio. Poi ha calmato e buonanotte. Adesso bisogna vedere stanotte se riusciamo a dormire nuovamente. Valerio! Voglio di me. Voglio il padronito radio, per favore. Allora, vediamo un po', sentiamo 9. Abbastanza buono, radio, sito 4, non è chiara, rimane leggermente cupa. Cioè, più forte di me arrivi qualche, Cosa tu? Più forte di me arriva l'arghero, Ma stavo dicendo la radio non mi piace, no? Butto via tutto dalla finestra, Butto via tutto dalla finestra, Valeria, ripresa da me a qualche la radio, che è meglio? Non voglio, non lo sapere, perché il segnale arriva più forte di lui sicuramente, perché mi ha detto che arrivo 5, io lo seguo. No, siete pari di segnale, tutte e due Santiago 9, solamente che tu sei Luca, sì, hai la modulazione. Sì, io a 9. Vabbè, c'è la... corposa, sicuramente la sua modulazione è quella. La mia? Sì, parchetto, sì. È corposa o sorposa? La piena, corposa, Allora è buona la modulazione, no? Perché mi stanno spaventando, e mi spavento io, non mi dicono che arrivo male, no? Tutto lì. No, arrivi bene, tranquillo che arrivi bene. Tutti e due lo stesso Santiago, vedete, Santiago 9. Oh, questo apparato da Santiago 9 a tutti, io non lo so, non lo so. bene, no, già dà anche segnali bassi. Evidentemente state pompando tutte e due. Sì, io sto pompando un'antenna, un baracchino e un microfono, tutto lì. Non c'è niente da pompare, qua tutto cappa di noce. No, allora, io sto andando con... Aspetta, comunque qua sta, aspetta. Una cinquantina di watt, vai. Pensa un po', è un 4 watt, 5 watt e arrivo anche ero benissimo, cinquantina di watt. Questo lo tengo a 10 watt, lì va a 50, 40-50, dai. È positivo, no? Adesso come stavi controllando c'era l'amico Alghiero, stava parlando. Dove vatti l'amico Alghiero? Ma dove stai tu, Luca? Sassari, zona alta. Sassari, Monte Rosello, casetta in Canada, non so se li conosci, Veloce, non so dove sta. Zona alta comunque, già là per quello che arrivi bene. Zona alta comunque, niente di che. E ogni tanto costruisco qualche palazzo alto e rompo le scatole, dai. A te, vai, vai io. Ecco, la matola 5, vabbè, c'è una matola turbo, vabbè, allora già si intendono, è tra una e l'altra. Se tu guardi dopo che fai, non c'è le, come si chiama? Non sono così dove le toccano i tram, lì a Panarcaria, però guardi, se tu fai 50 metri e entri dentro, dove c'è quello del comune, lì dentro, se guardi bene, c'è una volta va più, ma lì chi è l'antenna? Di Stefano Principe. Ah, ecco, va bene. Se mi fai comunque la radio, ci mettiamo d'accordo un giorno, vengo a casa, oppure vediamo dove trovarci, e così scorso, uno e l'altro è apparato, va bene? Così, quell'altro lo provi, che tu non ci credevi, lo provi come potenza, e poi questo qua mi sistemi come, diciamo, lo smitter. Va bene, sarà fatto, non ci sono problemi. Ma ho portato uno da poco e l'ho fatto attrattivo anche se non ho strumenti, ma comunque mi appoggio ad un amico, quindi non ci stanno problemi. Per quelle cose lì non sono problemi. Poi se c'è poca potenza se lo facciamo uscire da un potenza alta, non ti preoccupare. Avanti, Valchetto. Positivo e Caparogero, la cosa positiva, dai, cioè va bene, dai. Va bene che va bene. Non baci, va bene, sì. Si vede che si è arrivato oggi Luca, un undicesimo della Cobra, immacolato, dentro la busta, mai usato. Uno stocchio di magazzino dall'Inghilterra, un 40 canali più 40, 80 canali. Ma è una cosa splendida, veramente, bellissima. Non ce l'avevo quello la collezione, l'ha portato Fabrizio. Veramente bellissima, bravo, la stavo usando poco fa. E poi come ho fatto con questa, dai. Non ci sono problemi. Avanti, Luca. Va bene, sì. capire, noi già siamo qua sempre, direi canali 45, boh, lo vedi tu. No, io ho qua il PC, faccio che lo faccio. Lo si fa palmato se ho il PC. Capito? Sei attento che non fai come l'algherese, eh? Ma conosci la canzone sia Margherita? Si ma buona o per voi dalla piscita. No, tranquillo, grazie. Tranquillo. Che si mi abbassa i vestiti, cocco. No, sono andato qua lì. Grazie, sei andato benissimo, eh. Perché lui la legge è una matica, ma noi qualcosa che la sappiamo, no? Perché lui dice Palba, ma spiegale tu cos'è Palba. No, no, non le dico niente. Hai capito quello che è, eh? Dopo, guarda che la legge, ci sono frasi al contrario, fai attento, eh. Prima era, come si dice, vista. La vista è molto stretta, ma secondo me mi devo mettere le gambe. Qual è il formato attacco? Ah sì. Aspetta, la fingo. Vediamo un po', ecco qua. Hai visto qua? Ora, ma non che tu, che sistema operativo, metti Windows 7, posso aumentare di da 2 RAM a posto, invece. Aspetta, 22 gradi ha segnato qua, ho preso di più. Io ho visto la ghiaccia là, però casino. Ma un sacco, io ti ma che tu non immagini. Che cazzo me ne frega, va bene così. facciamo due chiacchiere, parliamo, poi quando non c'è più pazienza, ma io prendo tutte queste cose a titolo di gioco, perché poi lo sai, no? L'ha giocato a te, l'ha giocato a altri, quindi quando mi incazzo da voi gioco più prepotente di là, inizio a attaccare, a consumare corrente, a rompere i coglioni e poi ci piangono tutti, quindi non serve a niente romperci le palle uno con l'altro. Ognuno fa quello che le piace, ognuno sta con chi vuole, giustamente, ingiustamente, che cazzo te ne fotte. C'è qualcuno, ma non è un... c'è qui che non per bicicletto, va bene, ho fatto una volta con il pubblicatore, mi ha fatto Luigi, capito, aspetta un attimo, la abbasso un po', ma poi l'ho detto, lo sapevo solo a Franco. E basta, poi non ho detto che lui, ma lui si fa scherzare, ci mancherebbe. Certo, se poi il gioco dura troppo non va bene, perché dura poco tanto quanto, ma dura troppo ci diamo le palle. Ma infatti, aspetta, scendo sta sì. Ma infatti non ha nessun significato, anche perché poi diventa un casino. Quello lo mette a te, tu lo metti a lui, quello lo mette a te, tu lo metti a lui, e almeno fai da Bishu. Siccome poi io mi conosco, perché non ne uso 100, ma ne uso molti di più, dopo i coglioni a tutti e poi se la prendono con me, quindi evito, non me la fotti nulla, qua non c'è importante, spengo e me ne esco, cosa stai a bisticciare con la gente. Tanto da sempre ci sono queste cose, quindi... non è da adesso no, che ci sono da sempre, perciò pazienza, siamo abituati, cazzo te ne fotte. Io faccio, mi passerà, allora finiamo con questo. Molto di ballottini, ma non ti nati. nipote ha fatto Margola. Mi ha dominato, mi ha lui, vesce fresco, mi ha si trovi di ira domani il rugo di baracco, lì su Tarretto, me. Un segugio di vecchia, ma dove sei? Ti si mangia quel grombo a te. Dove che si? Wow, per affrontare discesa Provaghe da parte mia direzione Città di Sassari. Anche con 4 watt mi ascolti. Perché non ti devo ascoltare? Le stazioni serie, non si burattini, ci fanno sentire e ascoltano, capito? Ti ringrazio. Ti ascolto magnificamente bene, alla grande, senza nessun problema. Ho commutato il baracchino e ho spento tutto, perché fra un po' me ne vado anche a dormire, capito? Avanti, Lugariello, lo senti a Domenico Tardanetto del rientro. Ehi, ciao Lugare! Ciao Lugare, buonasera, Aureli, ben ricevuto! Sta rientrando e parte subito Luca. Luca si è perso. Non ho capito. Che sta rientrando e parte subito per un ritratto. Non ho capito adesso. Solo sei domi. Questa radio come ti piace con questo microfono, sto baracchino degli anni 70? Sì, ti ha minato, capito? La tua modulazione sembra la stessa, non cambia mai, ormai la modulazione ha richiesto, perché il tuo microfono deve usare quello degli altri, tu non lo puoi usare più, si chiede, ma è domino, non c'è niente, tanto non ce la fai. Ti rispondo col tasto telegrafico e ti mando a fanculo, intanto non sai cosa ti sto dicendo, guarda. Si dice vai a cagare. Ma vai che c'è qualche polacca che ogni tanto ti mette la mano in mezzo al cuscino. Ti piacerebbe. Pensare, Falchè, che quando è arrivato qua, che l'ho conosciuto io, nel lungo 1989, questo si stava convertendo a paraculo, ci va con i frusci, lo sai. Arriva questo a caricare da subito la mia amicizia, quindi ha detto no, mica c'è approccio, vai, mica approccio, mica paraguro, no, quando se ne è accorto che ha iniziato a mettere la mano in mezzo alle gambe, cazzo, se ne è tornato da a piedi. Minchia, no, ma c'era questo qualche paura di avermi, capisci? Sugars. Figurati tu, per dispiacere, quando Domenico se n'è andato del tutto, è venuto con me, e poi c'era il camion suo, e era il padrone con me, non c'erano problemi. Cazzo, da dispiacere ha messo a fuoco il camion, guys. Ti ricordi quelli di nuovo nuovo, come il rosso? Passiamo. Devo essere in galleria, vero gioco mi fa che... E altro non dispiacere, ha messo a fuoco il camion, adesso, perché Domenico se n'era andato. Andiamo a una via abbigliata a Borsi. Tu mi hai abbigliato l'uomo mio, vai, hai fatto una cagata, vai a Google, vai. Allucinate. C'è Domenico, insomma, vale. E poi è un mio paesano, capito? Un uomo grande, cazzo. Ma da lì, se mi è andato Bobbo, l'altro mio cuto, grazie al gascio, mi avevamo detto. Cazzo, poi mi ha fatto girare le balle. Ha detto, ma te nati o voce a voi, ma te vini. Se la vuoi pagare, vai, la famiglia paga, vai. Cazzo, gli ha dato il biglietto di un uomo, ma che cos'è? Un giocattolo. Fare il guru, così, altro. Vai, avvia, te vai. Come faceva la schiavo Domenico, portami qui, portami là, e andiamo lì, andiamo là, cazzo, ma non te avvi, no, via una di riposo, era una cosa allucinante, per due citi gaggati, ma alla fine ti fa una cosa, mi questo sono il chiave del camion, dove arrangia di Domenico, io c'ho altro da fare, e sino alla fine quando ha mollato lui perché ha preso la patente superiore, è andato a guidare gli articolati, io ho dovuto mollare perché già c'avevo un altro lavoro, quindi seguiva tutto lui, faceva tutto lui, fatturava tutto, quindi figurati tu, se io avevo problemi con Domenico, perché di dai, yes. Manco male balle me la fottia, ma c'era lui e c'era già la lui, anzi mi ha insegnato anche a guidare il camion, figurati. Ci mettevo due ore per sorpassare, comunque, ah, dove? Con te ci metteva due ore. Bravo, schiaccia. Schiaccia e vai. Oh, schiaccia. Oh, via, tu mi sentiva in genere. Ma come è bello di un... Dillo a Claudio se si teneva nelle curve di Alba Kenna quando sentiva il camion fischiare. Come guidava Domenico? Oh, in quinta ne avevamo più si divertiva lui, cazzo, come mi ripigli un cascione, dove mi ripigli un cascione? €2.800 con un vicino con un 60 a vedere, un cazzo lo fatturi. Oh, io al prezzo del gasolio che adesso metti tutto in conto quella cosa lì, l'euro, perché noi era in lire, ma neanche la metà. Ma non fatti neanche la metà da me, perché poi c'eravamo io e tu col camion grande, la Polda, poi c'era Andrea Bedoni col furgone piccolo alla TNT, io c'avevo l'altro l'SDA e cosa era la di Farma, quindi cazzo, ma ne fatturavo di roba, ne fatturavo un bel, stava un bel bene, però poi... Però poi niente, quando io sono entrato lì non ce la facevo assicurare tutto. Tu eri andato a guidare articolati, Andrea si era messo a conto suo, il figlio di Gavinuccio era andato col padre perché lo voleva il padre, io mi sono trovato con un autista solo che non mi fidavo, ha detto vai una goccia. Ha volato un furgone a Piero Cresci che lì all'SDA adesso si è andato anche lui, proprio dato, vai a lavorare. Ne avevo bugato l'agnolo, toh, arrangiati, e ci è rimasto 10 anni all'SDA. Adesso se n'è andato, non so cosa stia facendo Piero, boh. Sì, ma togli una curiosità, ma è vero che un periodo c'era lì due Siasa, che quando si incrociavano uno scende nell'altro salario, lì due l'altro Siasa, è vero? E allora, Peppino Nieddu e Giovanni Nosia già di Giusciu, tutte le volte si incrociavano erano due trasportatori. E beh, Nieddu, Sia già. E lo sia lui. Eia, lo devo sapere anche io. Lui era venuto a testa croce, quindi era Andrea e l'Ave Maria. Testa croce, Nieddu, Sia già. Come si bingo bongo? Arrivando in filiale, arrivando. E quanto devi forte con questo baracchino? Sul più del 30 sigas. Non sarà troppo generoso, no? E si vede che è generoso, Claudio. Come nuovo, mai usato. Nuovo proprio di pacca, nel lato oggi dall'Inghilterra. Un Cobra undicesimo, faccio un console primo, il Cobra undicesimo, fra poco me ne arrivi uno, Regina Margherita di Savoia. Scusate un pompino se ci siete a dopo che io mi apro il cancello e mi faccio il spostamento, sgancio aggancio e ripartiamo. Addio più! Dopo se coincide. Bene, dottora, bene, saluto, buon 144 con todos e tutte le prossime. Va bene, perché io sono qua, dai, aspetto che riparta Domenico, lo porto uscire un pezzo e poi anch'io me ne vado a nanna, sono stanco. Se no è un casino per domani, dai. Chiamate voce, dai, buonas noches, a domani, ciao. Ormai ci sono montati, lì tutta la parte di divisore i baracchini, dove c'è la parte, la L, tutta a terra me devo buttare domani. Perché? Perché ne ho tolto le finestre, se no non riesco a fare un cacchio, capito? Non farmi le finestre, poi devo passare un cavo lassù, allora ne approfitto tutta la sezione dei baracchini a terra, così pulisco tutto. E una volta che poi ho finito ho ripiato tutto, tanto ci sono i cosi sotto, mi avevo messo la L Giulio, ci sono una, le sto toccando, due viti, me le tolgo, abbasso la scrivania, tanto questa si può abbassare, almeno lavoro bene, capito? Ehi, va bene, mera. Va bene, saluto le tue guardia, dai, alle migliori alle prossime, ciao, buonanotte, ciao. Ciao Anto, ciao, buonanotte, a domani, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.